Fratelli e sorelle, quando vedo queste famiglie riunite qui a Roma, vedo il mondo intero, in tutti i continenti, tutte le famiglie, cristiane sì, ma non solamente cristiane, tutte le famiglie umane. In questi nostri tempi, nei quali la bellezza autentica dell'amore coniugale viene minacciata in tanti modi, abbiate coraggio, siate apostoli della dignità della paternità e maternità. Siate apostoli apostoli del bel amore. Dico a voi insieme, padri e madri, siete stati chiamati all'altissima missione di cooperare col Creatore nel trasmettere la vita. Non abbiate paura della vita. Proclamate insieme il valore della famiglia è quello della vita. Senza questi valori non c'è futuro degno dell'uomo.